Pronto? Ciao Ness, sono io, come stai? Ho immaginato fossi morta come Laura Palmer. Su Facebook sono diventato fan dei serial killer, chiedendo l'amicizia a quelli di Criminal Minds. Ora so chi può aiutarmi a farti fuori tra i miei friends. Inizia a contattarmi, mando messaggi, rivoglio un borso al sole sotto i suoi raggi. Come Lightman, smaschero ogni tua bugia. Uso la tecnica di Dexter al risveglio dall'anestesia. Eureka, ti sei rifatta una vita come Nippel Tag, ma resti prevedibile come il finale di Prison Break. Ti credi furbo, hai installato allarmi, come la tata cerchi di ingastrarmi. Avevo la fede al dito, ora l'ho fusa, è un proiettile pronto per sparare. Chi mi ha tradito, io pentito, è la cazzata più grossa che abbia mai sentito. I tuoi sogni non si avverano, perché ti svegli sul più bello come tu. Quando si realizzano, fa un passo indietro, nell'ultimo io c'ero, del tocco di colore al tuo copione in bianco e nero. Le mie rime sono trame delle mie giornate, raccontano di me, di te, di casalinghe disperate. Regista del mio quieto vivere, resto tranquillo, tra le protagoniste, depende il ruolo di una squillo. Se mi servi, ti farò uno squillo. Ness and the City, viva la giornata senza illudermi, senza falsi miti. Tu sei una calamita nella città, nella mia vita, da sempre una calamità. Questo è Ness and the City, vita reale, no fiction, zero telefilm, made in Italy. Tra i protagonisti dei miei pensieri, tu non ci sei più, oggi come ieri. Buona visione, su schermo piatto, full HD, le tue giornate piatte. Le mie trascorrono in 3D, indosso occhiali, che uniscono i colori. Gli stessi occhiali, che nascondono i dolori. L'amore è come un'infezione, la disinfetta è come Dottor House, armo la passione. Così da oggi, sarai nuova ogni tentazione. Il tuo peccato con me non cade in prescrizione. Posso chiamarti troia o puttana, è questione di semantica. Quello che hai fatto a me difficilmente si dimentica. Ed io non corro rischi, ho tutto nella testa come Chuck Bartowski. Se la tua coscienza sanguina più delle mie ferite, come True Blood mi faccio un succo, ma con le tue cazzate. Bisognava essere un Eros come Petrelli, per sopportare te, tua madre e i tuoi fratelli. Sento puzza di bruciato e la tua coda, come in Ugly Betty la coda bruciata oggi va di moda. Imparerai come uno spot che la vita è strana, fa gara a metterla nel culo come Dolce con Gabbana. In lingua italiana, romantico, simpatico, t'ho sempre presa per la gola. Tu carina dolce, mi hai sempre preso per il culo. Te lo dico con garbo, te li disturbo, faccio a meno di te come lo sperma quando mi masturbo. Ness and the City, viva la giornata senza illudermi, senza falsi miti. Tu sei una calamita nella città, nella mia vita, da sempre una calamità. Questo è Ness and the City, vita reale, no fiction, zero telefilm, made in Italy. Tra i protagonisti dei miei pensieri, tu non ci sei più, oggi come ieri. Ripenso al mio passato, alla sua fitta trama, passato da love story a comedy, a sì al drama. Resta un caso irrisolto, come in Gocchesi, incompatibilmente legati come Will e Grace. Non rimane che strapparmi il braccialetto che ho sul polso, come una manetta e il ricordo di un percorso fatto di insidie e di un unico rimorso. Non essere fuggito come Scofield, tutto tempo perso. La mia voglia di volare, frenata dalla paura di cadere. Non si può scherzare con chi non vuole più dolore, e tu sei qui con le tue scuse che squallore. Il coltello è già nella ferita, aperta tempo fa quando sei sparita. Per te ho privato tutta la mia vita come al 232 ora per te è privata. Mentre scorrono i titoli di coda a fine giornata, tu non sei protagonista neanche di questa puntata. Esaminando fatti o prove come Grissom, ti taggo alla parola fine su www.vaffangulo.com. Su www.vaffangulo.com. Ness and the City, viva la giornata senza illudermi, senza falsi miti. Tu sei una calamita nella città, nella mia vita, da sempre una calamità. Questo è Ness and the City, vita reale, no fiction, zero telefilm, made in Italy. Tra i protagonisti dei miei pensieri, ti metto giù, oggi non è ieri.